Parliamo invece dei clochard denunciati, almeno questo dice Repubblica, oggi c'è un tweet ma un articolo che sarebbero stati denunciati perché sono in giro per strada. È chiaro che la soluzione non può essere una multa perché non sei andato nella casa che non hai, anche i dormitori magari non sono in difficoltà o non hanno posti. Se non hai tu a casa devi uscire, un pezzo di pane non ci cadi dal cielo. Io resto a casa, voci di chi non ha casa. Cittadini e cittadine senza dimora raccontano come hanno vissuto il lockdown a Trento. Capitolo 2. Una vita salata. Mi chiamo Hisham. Io il momento che parlano in Cina c'è coronavirus e sono sul lavoro. Fino al 10 di marzo ho chiesto al governo che dovranno chiudere tutti. Allora ho venuto qua direttamente a Trento e rimasto con un signore qua che mi ha ospitato a sua casa. E allora non rimango a casa tutto il giorno. Devo uscire anche per vengo a trovare da mangiare o anche se per trovare una sigaretta non devo uscire. Sì, perché sempre ci controlli, sempre a parte che c'è gente che senza fissa dimora così, allora sempre trovarli sulla strada, non è che passo tutta la giornata così, evitare molte perché non devi uscire. E se uno non ce l'ha niente a casa, così deve uscire per forza, andare a mangiare o trovare da mangiare. Qua è venuta una guerra, un casino con me. C'è la polizia addosso. Ma ci vale, la polizia proprio, i carabinieri. Sai il serpe veleno, la serpente? Quello che si rigira se va a non donare, si nasconde, quello ero io. Io mi ero nascosto sopra gli alberi. Me ne andavo sugli alberi a nascondere. E gli alberi che pieno che di foglie torno. Per non mi far mischiare da qualcuno. Sono uscito dal dormitorio un attimo, l'ho visto e mi sono nascosto. Aspettate, se non andavo via e poi andavo a fare quello che devo fare a tabaccaio. Vado lì. Sono riuscito ad andare al supermercato a prendere un'aranciata acqua minerale e poi piano piano mi sono andato e sono arrivato al dormitorio. Sul mano ci stavano 500 euro di multa di verbale. Noi quando mi è stato quando è arrivato il virus, noi mi è stato vicino di Rospar. Quando mi è passato con un'altra mia amica in un parco, mi ha dato con la multa, mi ha dato un vigile, sì. La polizia locale. Mi ha dato la multa, mi ha detto. Mi ho parlato, scusa, mi bianca, ce l'hai i documenti, sì. Mi ha fatto vedere il mio documento romeno, no? Gli è andato, mi ha dato la multa subito. Era 450 euro la multa. Ho dato la multa anche alla mia amica, ho dato la multa un altro. Mi ha parlato con loro, no, tu mi dai la multa e non ce l'ho soldi per pagare. Cioè non ci lavoro, posso pagare io la multa? No, Bianca, che paghi la multa, come paghi la multa? Cioè non ci lavoro, cosa fare? Così la vita. Il 21 di marzo del 2020, chiamato mio un amico che è andato da lui, è arrivato a carabinieri, mi ha fatto noi una multa, perché il presidente che l'ha detto che nessuno dovrà uscire per i parchi, non deve entrare a un parco. E è venuto a carabinieri, ha fatto la morte per me e per un mio amico paesano anche. Era penale, è andata. Però ultimamente, appena 15 giorni, è arrivata Carabinieri per controllo, l'ha portata via in caserma, l'ha detto mi ce l'hai una notifica. E ho preso un po' di paura, però dopo quando ho visto quella multa è diventata 200 euro. Perché io prima paura che magari ci dicono ce l'hai 2 mesi di carcere o qualcosa. Insomma. E no, no, per 200 euro io va bene. Si lavora anche un po', lo pago, ma è che... Noi generalmente dormiamo vicino all'uomo in Via Verdi che c'è al centro studi, che è uno dei posti più sicuri secondo noi, perché poi dormire in strada comunque devi sempre stare attento. E poi per esempio quest'estate eravamo stati anche a Riva e quando pioveva noi avevamo trovato al centro congressi, ma sia la vigilanza che la polizia non volevano che dormivamo là. Sono venuti 2 volte dicendomi di andare via. Noi una volta abbiamo ignorato perché comunque pioveva, era già tardi, tirava fuori il vento, era un posto, l'unico posto un po' più riparato. Dopo una mezz'ora, un'oretta sono ritornati lì anche a rispondergli che non sapevamo dove andare, si era alterato e non gli abbiamo risposto, ma comunque è stato inutile e quindi dopo ce ne siamo andati. Siamo andati a dormire alla Rocca, che sarebbe il castello di Riva del Garota, che si trova proprio in mezzo al lago. In più avevamo nascosto le coperte, per non portarci sempre il peso delle coperte, nascosto le coperte, ma ci avevamo buttate via e quindi proprio non curanza le persone magari più in difficoltà. Quindi il senso umano, soprattutto già prima del Covid, non c'era molto. Col Covid è peggiorato ancora questo senso umano di aiutare le persone in difficoltà. Lì veramente hanno reso la vita salata proprio, sia diciamo la forza dell'ordine, sia i vigili, sia le guardie di finanza che camminano a piedi sul ciclabili. Addirittura un giorno, il 20 di aprile, no? Io ho venuto qua per fare delle carta, per mandare il mio capo, io devo fare un fax, in modo che lui mi prenda per lavoro, era successo, era... Loro mi hanno fermato sul ciclabili. Sono là, dici. Hanno detto dove vai? Io dico vado al punto del contro per mandare un fax. E hanno cominciato a scrivere, alla fine mi hanno lasciato un modulo, convinto che era finita lì. Invece ogni giorno sto vigile cominciano a rompere il coglione per telefono. E dove sei? E sei in grado di dare il numero di telefono del tuo capo? E dico, guarda, ma perché mi devi mettermi in una situazione imbarazzante? Se lui già ha un grande favore con questa causa generale, questo lockdown, già ha un grande favore che lui mi ha fatto lavorare. Se io vado a dichiarare il suo nome, il suo cognome, lì diventa problema per il mio capo. Continuano a telefonarmi senza sosta. Ogni giorno addirittura. E dopo io, quando io arrabbiato, ho detto ora smettiti di rompermi i coglioni, di quel giorno lì non hanno più telefonato. E altre cose dico, è stata veramente durissima. Soprattutto una senza tetto. Madonna, ma veramente un inferno, veramente. E qua che viene colpito secondo me? Il pesce debole, quello che non hai lavoro, non hai niente. E riesce a resistere fino a certi punti e dopo fino a quando. È inaccettabile che oggi ci siano ancora persone che dormono in mezzo alla strada, ma è assurdo. Cioè, se uno dorme in giro, non è tanto messo bene igienicamente, ci sono tante probabilità che questo qua si becca qualcosa in giro. È la questione che bisogna porsi, perché se le persone dicono che stanno lottando per far sì che il virus diminuisca, ma io non penso che così è il miglior modo, lasciando le persone fuori, perché queste persone potrebbero essere soggetti di contaminazione. Tutte le panchine piene di gente dorme lì, quanto c'è caldo gente dorme al panchina. Adesso c'è freddo, vai a vedere le stazioni. Pieno di gente dorme lì. Perché dove vai a dormire? E noi dormiamo fuori, poi la mattina come si alza, vieni qua. Tutti dormi a qua. E grazie il ponte di contro e grazie Capocino. Mi dà il mangiare, mi dà i vestiti, mi lava i vestiti, tutto. C'è la doccia, c'è le televisioni, c'è tutto, non manca niente. È la casa nostra questa. Cosa significa casa? Un luogo che protegge dal freddo e dai pericoli. Ma casa è anche molto di più. Visi, odori, colori, emozioni. È la prima esperienza di confine, dove ci si sente se stessi. La casa è il punto di partenza. Housing first. Ne parleremo nella prossima puntata di Io resto a casa, voci di chi non ha casa. Un podcast di Il gioco degli specchi, Punto d'incontro e Atas Onlus. Realizzato da Davide Grotta e Gabriele Borghi. Finanziato da Fondazione Caritro, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Se loro vuole trovare noi, siamo qua, dal punto di contatto.